Tempo di sport con Carlo Genta. Pomeriggio, salve a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Carmelo Lauricelli in regia per 800 24 00 24 per intervenire, messaggi 349 238 6666 e vi aspetto come al solito numerosi. Magari per parlare della divertentissima vicenda Berbatov, almeno divertentissima per tutti quelli che non tifano Juventus o Fiorentina, che saranno cazzneri. Per riassumerla però, io ho scelto le parole con cui Maurizio Crosetti chiude il suo pezzo intitolato su Repubblica, la comica più triste. Sono queste: il tentato scippo bianconero nei confronti dei viola in un angolo di un aeroporto tedesco è stata una comica roba da van spettacolo, così come l'ingenuità della Fiorentina, mentre Totò e Peppino provavano a vendere la Fontana di Trevi, il Fulham se lo comprava. Mirko Graziano, inviato della Gazzetta dello Sport, ciao Mirko. Ciao, ciao a tutti voi. Senza scomodare Totò, Peppino e la Fontana di Trevi, questa vicenda... Sì, per Berbatov mi sembra troppo scomodare Totò. Uomo, tra l'altro, con una sola faccia e una sola parola, perché no. Si ricorda anche oggi che si era promesso al Lecce, poi andò al Bayer Leverkusen, eccetera, eccetera, eccetera. Ha giocato con le tre carte, poi dicono che la moglie, che vi invito ad andare a vedere sui vari siti internet, abbia detto no, preferisco restare a Londra, e allora via, firma col Fulham. Sì, diciamo che comunque tutto, la cosa peggiore di tutto questo è che si è fatto tutto ciò per Berbatov, riserva ormai delle riserve del Manchester United, sì. Insomma, e quindi ci rendiamo conto ormai a che livello è arrivato l'appeal del calcio italiano, e forse bisogna rendersi conto anche di come si muovono i dirigenti italiani aspettando l'ultimo minuto, l'ultimo giorno per un giocatore di ormai medio livello. Sì, intanto mentre Maicon, mi confermerai, va al Manchester City, sì. Ed è ufficiale, no? Praticamente sì, e secondo me l'Inter fa una grossa sciocchezza perché a questo punto diventa molto debole in difesa, invece con Maicon e con l'arrivo poi di Pereira, soprattutto con l'arrivo di Paulinho a gennaio, che quindi avrebbe riportato Pereira, sì. In difesa, insomma l'Inter potrebbe essere la prima vera alternativa alla Juventus, così invece sulle fasce l'Inter è davvero deboluccia con Maicon, con Zanetti che ha 39 anni, non dimentichiamocelo mai, e con Pereira che fino a gennaio nei piani sarà utilizzato a centrocampo, e quindi, sì. Insomma, però era un addio annunciato, si troveranno, sì. Maicon, ecco, curioso, mille curiosità, si troveranno Maicon e Braida a Manchester, perché pare che il Milan sia là per portarsi a casa De Jong, che avrebbe detto di sì, salvo poi magari firmare con il Fulham, esatto. Intanto il Milan, è là per... No, dico col Southampton, certo. Ormai hanno più appeal. Sì, più appeal. Oggi tra l'altro si profila anche un'altra, cioè Juventus e Fiorentina non hanno finito qui, mi pare di capire, perché no. Bender, ho letto che è a Milano per parlare con la Juventus, però lo vorrebbe anche la Fiorentina, quindi magari prende il treno. Bravissimo, che qua si fa con l'Eurostar in questo caso, col Freccia Rossa. Col Freccia Rossa ci si mette poco. O con Italo, ecco, non facciamo pubblicità da una parte o dall'altra. Sì. No, penso che insomma siamo ormai alle battute finali. Io mi sono fra l'altro portato proprio a Torino, perché credo che in serata il giocatore possa poi arrivare a Torino. E invece pare che in questo momento qua sia a Milano per svolgere tutte le ultime questioni contrattuali, diciamo così. Dovremmo essere alle battute finali, anche perché in effetti prima di virare su Berbatov la Juve ieri aveva di fatto chiuso con Bentner, e poi gli era stata prospettata questa grandissima occasione di arrivare a questo enorme fuoriclasse di Berbatov, ma magari anche per fare un dispetto alla Fiorentina per Jovetic, secondo te? Ma io non so se la Juve convenga fare un dispetto, sprecare un dispetto no, alla Fiorentina per arrivare però a Berbatov. I maliziosi hanno detto così, ma secondo me lo faccio per Messi, no? Lo faccio per Cristiano Ronaldo, non lo faccio per Berbatov. Insomma, mi sembrerebbe un'ulteriore fesseria. Comunque già ieri era stato praticamente bloccato, e quindi adesso la Juve chiaramente con poche ore a disposizione. C'era anche poco sul mercato, c'era Bentner, c'era Borriello che andrà via da Roma. E dove va? E potrebbe andare per esempio alla Fiorentina, ecco. Per esempio. Perché è un altro giocatore che era sul comune taccuino di Juventus e Fiorentina. E poi resta poco altro, c'è Floccari che si è quasi accordato col Bologna, ma che era lì che aspettava magari una chiamata di Juventus o appunto la stessa Fiorentina, l'Inter stessa che sta cercando un vice milito, in effetti anche l'Inter bisogna monitorarlo da quel punto di vista, E niente, resta poca, come vedi, resta poca cosa insomma sul mercato. Non sì, stiamo parlando. In ogni caso, guarda, ha ragione il tuo collega Garlando, no? Che oggi scrive che in questo mercato c'è tutto tranne i soldi, perché colpi di scena, chiacchiere, dispetti, sì. Giocatori che fuggono, abbiamo visto e stiamo anche vedendo qualche cosa con grande fantasia. Bravo, ma aspettavo, esatto, bravo, mi aspettavo un po' più di fantasia. Cioè, in queste situazioni devi venire fuori la bravura dei dirigenti, la tempestività. Sì. E invece non c'è stata né tempestività né francamente grande bravura, insomma. Si è andati proprio a raschiare il barile, secondo me. Vabbè, adesso vediamo se arriva Bettner, eh? Non, sì, esatto, non aspettiamo. Non cambia il treno. Magari in effetti va mandato qualche cronista in stazione, vediamo un attimino che non venga preso al volo qualche treno. Grazie Mirko, buon lavoro. Grazie a te, ciao, buona giornata. Ciao, grazie Mirko Graziano. 800 24 00 24, mi correggono, erano Totò e Nino Taranto a cercare di vendere la Fontana di Trevi, non Totò e Peppino. Che giocatore è Bentner? Domanda qualcuno. È un attaccante che aveva fatto molto bene un paio d'anni fa nell'Arsenal, adesso è giovane, ha qualità, non è una superstar, non è il top player che la Juventus cercava. È un attaccante che può servire, anche perché a quanto pare Matri non è più nelle grazie in cima ai pensieri di Antonio Conte, e quindi la Juventus voleva una punta che non è stata Berbatov, ma sarà probabilmente, forse, Bender. Cristiano D'Alecco, buongiorno. Buongiorno Genta, ecco, no, mi aggancio subito. Io sono tifoso, adesso non so bene chi sia Bender, insomma, Berbatov me lo ricordavo qualche anno fa sommariamente, ma mi domando se abbiamo prepensionato Alessandro Del Piero nel mese di ottobre dell'anno scorso, no? Con una certa classe, anche perché a ottobre gli hanno detto che lui non avrebbe più giocato nella Juventus, insomma, lasciamo perdere poi, per andare a prendere, vabbè, Giovinco, che vabbè, ok, e questi qua che non so neanche chi sono. Beh, però Giovinco, però Cristiano, Giovinco, vabbè, ok, cioè è un discorso che ci può stare. Giovinco, no, ma è un discorso che ci può stare, guardare. Ancora anche Del Piero, sinceramente. Cioè, se devi giocare in Champions League, ci sta forse di più Del Piero che Giovinco. Abbiamo visto l'anno scorso quando è entrato, guarda, che con la punizione con la Lazio, dobbiamo ringraziare, quella lì è stata la chiave per vincere lo scudetto. Certo, però mi pare che quella della Juventus sia stata una scelta politica, d'accordo, no? E quindi si è deciso di provare a vedere se Giovinco è il nuovo Del Piero, se Giovinco può fare quello che almeno in parte giustissimo faceva Del Piero, no? E sono d'accordo, però lui lo tieni comunque a fare la quinta, cioè non rompeva neanche più le scatole ultimamente, voglio dire, lo tenevi a fare il quinto, cosa ti costava? Cioè, per poi sentirsi parlare ancora di Borriello, cioè, no, allora tengo Ciro Immobile tutta la vita, altro errore secondo me. Cioè 30 gol l'anno scorso, gol al debutto, questo è uno che la porta la vede. Sì, cioè per andare sì a prendere o Berbatov o quell'altro, cioè mi tengo Ciro Immobile. Su questo, posso essere d'accordo, grazie a lei Cristiano. Dato ieri sera abbiamo visto una meravigliosa partita di cui per caso sto rivedendo gli highlights, tra Real Madrid e Barcellona, con Mourinho che si è preso la rivincita in questa Supercoppa di Spagna, vincendo 2-1. Grande partita e grande vittoria del Real Madrid. Partite così le vediamo per l'appunto in TV, ora, domani e chissà per quanto. Fulvio, buongiorno. Buongiorno dottor Gente. Niente, volevo chiedere come giudica il mercato del Torino fino adesso, visto che sono tifoso del Torino, mi sembra che sia stato abbastanza buono, insomma, sì. Volevo sapere cosa ne pensa, grandi linee. Sì, mi sembra che sia un mercato corretto, innanzitutto è riuscito a tenere Ogbonna, che è un giocatore, nostro top player, direi, che è il vostro top player, senz'altro. Sì. Cerci l'anno scorso ha fatto molto bene alla Fiorentina, fino a quando poi si è messo ad andare a ballare, a fare i suoi casini l'anno. È vero. Non so come si comporterà Torino, però andava abbastanza bene. Brighi e Gazzi, vabbè, possono tenere in piedi il centrocampo. Fulvio, poche illusioni, cioè il Torino è nel plotone di quelle che nella mediocrità di questo campionato lotterà per la salvezza. Se Cerci va magari un po' meno a ballare, fa qualche gol, le chance crescono, secondo me. Il ragazzino montenegrino che sembra che sia stato acquistato ieri, Marco Vaci. Non lo conosco, mi perdono. Del Montenegro che sembra che sia stato consigliato da Jovetic. Ah, visto che non si può prendere Jovetic, si prova a seguirne i consigli. No, non lo conosco, non lo conosco, sì, dico la verità. Poi... Sì, era una notizia. Ma il Torino potrebbe anche, insomma, dare spazio ai giovani, ma di spazio ai giovani poi parleremo con un ospite che aspettiamo. Grazie. Grazie Fulvio, a presto, grazie, in bocca al lupo. Mario Parma. Sì, buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione, poi grazie. Avevo due domande. Vuole anche lei Berbatov? No, io Berbatov lo lascio volentieri, dov'è, sinceramente. Al Fulham. Sì, esatto, squadra di primo piano della Premier League, sì. Certo, certo, ma soprattutto una squadra che al confronto del campionato italiano probabilmente potrebbe arrivare anche terza o quarta, credo, in questo campionato 2012-2013. Ma guardi, Mario, mi permetta, ma oggi non mi sento di sopravvalutarci così tanto, dopo che ci ha schiaffato fuori l'Udinese, oggi ci avviamo al sorteggio più triste del mondo, da quando... C'è la Champions League, ne portiamo due, Milan in prima fascia, Juventus in terza, chance di vittoria zero secondo me, ma neanche forse di far molta strada, soprattutto nel caso del Milan. Non riesco, mi perdoni, ma non riesco ad essere particolarmente ottimista, quindi magari il Fulham viene qui e vince lo scudetto. Potrebbe avere perfettamente ragione, io infatti le volevo chiedere se secondo lei il calciomercato che abbiamo visto quest'anno, poverissimo di soldi, non sia in realtà lo specchio di una situazione che vede le squadre di primo piano non incapaci di rafforzarsi, ma senza il bisogno di rafforzarsi, perché alla fin fine è un livello talmente basso quello delle squadre presenti in Serie A che forse non serve neanche investire soldi per vincere ancora il campionato. Ma questo discorso può valere per la Juventus, che comunque ha operato molto bene sul mercato, adesso al di là della vicenda Berbatov, Bender, eccetera. Questo discorso poteva valere per la Juventus. È chiaro che il Milan si è indebolito in maniera tremenda e insomma è chiaro che si è tolto anche da, secondo me, dalla lotta a scudetto. Adesso hanno preso Bojan Krkić, prenderanno forse De Jong se ci riescono e se appunto non va a firmare con un'altra squadra di prestigio britannica. Avevano bisogno sì di rinforzarsi, perché mi sembra che il gap tra la Juventus e chi insegue, nonostante l'ottimismo dell'Inter abbia ripreso un po' di vigore, mi sembra che la distanza sia tanta. Siamo sempre lì a rimestare nello stesso calderone, no? Vediamo cosa fa la Roma di Zeman, vediamo se Napoli ne ha abbastanza per dare fastidio alla Juventus. Avevano bisogno sì di rinforzarsi, la verità è che non hanno i quattrini, o non hanno comunque la possibilità o la voglia di investire quattrini in una rifondazione sia milanista che interista che andava fatta. A questo proposito leggo Giorgio De Luca, prima mi ha dato la formazione dell'Inter campione d'Europa, e di quella squadra ne restano davvero pochi: via Julio Cesar, via Maicon, via Lucio, via Eto'o, via Pande, via Muntari, via Materazzi, solo tra quelli che hanno giocato. Insomma, andavano rifondate le due squadre di Milano, ma i quattrini non c'erano e non ci sono. Enrico da Roma, 800 24 00 24, numero verde. Enrico. Pronto? Pronto. Carlo, buongiorno. Enrico, buongiorno. Buongiorno. Senta, io volevo fare una considerazione. Io chiamo da Roma, occasionalmente mi trovo a Lecce, ma sono un tifoso juventino. Sì. E volevo dire che... Sì, un bel miscuglio, sì, assolutamente. Sì. Volevo dire che sono rimasto molto, veramente molto dispiaciuto per quello che è accaduto ieri. Non per il fatto che la Juventus non abbia acquistato Berbatov, che come avete detto voi non è un campionissimo. Non è un campionato, anche se è un tizio che ha una media di un gol ogni due partite. Ma sono rimasto molto dispiaciuto dal comportamento della dirigenza juventina. Non credo sia quello il modo per andare ad acquistare un calciatore che aveva già avuto o preso un accordo con un'altra squadra. Sì. E quindi questa è una cosa che mi ha veramente dispiaciuto molto. Poi volevo fare una piccola considerazione, se me lo consente. Sì. La giustificazione della signora Berbatov dice che vuole rimanere a Londra, ma forse non sa che il marito gioca a Manchester. No, ma lei magari stava a Londra, lei che ne sa, non lo so. Sì. Sì, forse no, sì, vabbè, no. Ma non lo so, questa vicenda io la trovo molto comica. La trovo molto comica, al di là di questo scannarsi su un giocatore che tra l'altro Manchester United aveva pagato un pacco di soldi che non è finito in panchina, che non serviva più, è diventato riserva della riserva, si sono scannate in maniera comica, ripeto, Juventus e Fiorentina, e questo ancor più comicamente è andato a prendere le sterline del Fulham, facendo contenta la signora, che vi invito a visionare su internet, e poi magari mi direte: una così come fai a dire di no? Bah, può essere una giustificazione anche questa. 800 24 00 24, secondo qualcuno l'ideale sostituto di Milito, che è Giampaolo da Padova, all'Inter potrebbe essere Rocchi della Lazio. Che ne pensa? Che ne penso io? Ci sta pensando anche l'Inter, che a quanto pare segue due piste, che sono Floccari e Rocchi, per il backup di Milito, di cui onestamente c'è bisogno, perché un'altra prima punta l'Inter non ce l'ha, se non con la necessità di andare a pescare nel settore giovanile. La comica è finita, mi scrivono, ha appena fatto le visite mediche con il Fulham, soggetto ovviamente Dimitri Berbatov. Roberto, Milano, buongiorno. Buongiorno, complimenti per la trasmissione. Intanto. Grazie. Grazie. Niente, io non è che voglio ritornare sempre sul vecchio discorso, ma riguardo il Milan, secondo lei ora non c'è proprio niente da fare per il calciomercato? E sugli acquisti un po'... Beh, questi sono De Jong. De Jong se arriva, ne hanno preso Niang, che ma magari impareremo a conoscere, che io sinceramente conosco poco. Bojan era in prestito dal Barcellona alla Roma, ora è andato in prestito dalla Roma al Milan. Insomma, i giri sono questi, non si scappa più di tanto. Quindi Roberto, se lei pensa che l'ultimo giorno di mercato possa arrivare Messi, beh, se lo tolga dalla testa, cioè alla meglio arriva De Jong, che è comunque un giocatore che a questo Milan di basso profilo comunque serve. Io dico sempre, non è mica meglio allora puntare sui giorni, come dicevano altre telefonate in questi giorni, e aspettare. Poi ne parliamo, però puntare sui giovani quali? Questo è vero, so, però, Perché si fa presto a dire puntiamo sui giovani. È diventato. Soldi, voglio dire, signor Genta. E ho capito, però è diventato una specie di luogo comune, cioè si può puntare sui giovani se sono giovani che sono giovani di livello. Mi sembra che il Milan comunque abbia innestato abbastanza stabilmente in prima squadra De Sciglio, che è alla fine l'unico giovane in una linea difensiva, quella di domenica, che era di Ottuagenari. Bisogna capire, il Milan ha ricominciato da poco ad operare in maniera seria e consistente con i denari sul settore giovanile, i frutti non credo che siano ancora maturi, quindi si fa presto a dire puntare sui giovani. Quali giovani? Devono essere comunque giovani di sufficiente livello. Andrà da Milano? Sì, andrà da Milano. Buongiorno. Senta, anch'io volevo fare un piccolo intervento sul discorso calciomercato delle squadre italiane, a prescindere se sono juventino, ma volevo sottolineare il fatto come effettivamente mancano i fondi, mancano i soldi, e questo comporta poca fantasia, purtroppo, e un livello calcistico italiano che sta andando sempre peggiorando. Sì. L'Inter cerca di tirare fuori un po' di innovazione, forse, mi sembra, con Stramaccioni, mentre il Milan sta veramente vagando al buio, secondo me, nel calciomercato di quest'anno. Sì. E poi volevo sottolineare quello che aveva detto lei prima sui gironi di Champions. Sì. Notavo stamattina che la Juventus potrebbe finire con Borussia Dortmund, Manchester City e Barcellona. Sì. La Juventus. Sì. E il Milan... comunque il Milan credo che comunque finisca per pescare, e pescherà avversari difficili visto il livello. Sì, la Juventus in terza fascia rischia grosso, ma è normale che sia così. Non dimentichiamo però che il Napoli l'anno scorso era in quarta fascia, prese un girone che sembrava infernale e ne uscì con le braccia levate tra mille applausi anche nostri, quindi è chiaro che mai era capitato di presentarsi soltanto con due contendenti, per lo più nessuna delle due in grado di andare oltre, nella migliore delle ipotesi, della Juventus, il passaggio della fase a gironi, gli ottavi di finale, poi non saprei. Andrea da Milano, ci abbiamo già parlato, ci stavo parlando, lo saluto naturalmente, Marco dalla provincia di Varese e poi Borsa. Ah, buongiorno. buongiorno. Buongiorno. Buongiorno dottor Genta, complimenti per la trasmissione. Grazie. Senta, argomento Milan, nel senso sono, vabbè, ormai siamo ridotti ai minimi termini e vabbè, pazienza. Però a questo punto io dico, è vero che De Jong potrebbe far bene in questo Milan, però un centrocampo di un Milan che è sempre stato un centrocampo nella storia del Milan di qualità, pensare di vedere Flamini, Muntari, De Jong insieme. Ho digitato De Jong su internet, De Jong la bestia la chiamano, ho visto interventi in Italia, non finirebbe una partita. Forse è meglio, veramente. Non dico sì, cioè, Marco, per la verità ci sarebbe anche Montolivo, che forse è l'unico giocatore sensato, se si vuole ricostruire, che ha preso il Milan, no? Su questo ha perfettamente ragione, ma veramente De Jong, con questa qualità che c'è già a metterci questo, io ho paura che in Italia, non so quante, ho visto interventi, non pensavo che fosse possibile interventi di quel livello, e non uno, perché è già un giocatore di un certo tipo, evidentemente. No, ma è un giocatore multiruento, è un muscolare, è uno che picchia come un fabbro, è un giocatore che gioca davanti alla difesa, il Milan ne ha evidentemente bisogno di una, insomma, di un sostituto di Van Bommel, anche se accostare De Jong a Van Bommel mi sembra una bestialità, perché Van Bommel era una, finché ne ha avuto, è stato un professore del ruolo. De Jong è un mazzuratore e servirà da mettere davanti alla difesa a fare legna. Ma il Milan ha bisogno di questo, cioè sta provando a tappare senza quattrini le tante falle che ha. Evidentemente non ci riuscirà, almeno per essere competitivo, questo mi pare chiaro. Dunque, Carlo Disa, sempre informatissimo, scrive su Twitter che Bettner arrivi in prestito alla Juventus, riscatto a 6 milioni, a lui contratto da 1 milione e mezzo l'anno, domani le visite mediche, attendiamo conferme, ma saranno queste. C'è chi mi scrive via SMS: caro Carlo, se la Juve dovesse vincere, immagino la Champions League, citeresti Maia e il 2012 per giustificare i tuoi pronostici sballati? Certamente sì, mi appiglierei ai Maia e alle profezie sul 2012. C'è invece Franco da Milano che ha seguito il mio consiglio, evidentemente è andato a dare un'occhiata su internet alla moglie di Berbatov e scrive: beh, io avrei firmato anche per la squadra oratoriana di Eton. Adesso però facciamo i seri, perché c'è il professor Vincenzo Pincolini in linea. Ciao Vincenzo. Ciao a voi, buongiorno. Vincenzo Pincolini, che dovete sapere, ieri ci ha mandato un fischio, un tweet, scrivendo: bisogna far giocare i giovani. Visto che continuiamo a parlarne tutti i giorni, io dico, bisogna far giocare i giovani, quelli bravi e al livello che, certo, e al livello che possono affrontare, perché non mi sembra che ad esempio il Milan, che ha iniziato da un anno e mezzo a lavorare di nuovo in maniera seria sul settore giovanile, possa dire: vabbè, pigliamo la primavera e facciamo giocare loro. Bisogna interpretare, certo, interpretare questo che sembra un assioma, questo ritornello col sale in zucca. Certo, è proprio uno step by step. Io credo che, tra l'altro, avendo incominciato a riprendere in mano seriamente il settore giovanile un paio d'anni fa, un anno e mezzo, occorrerà un po' più di tempo. Poi ho tutta una serie di altre considerazioni da fare, che penso che facciano tutti quelli che sono più che del calcio, dello sport. Sì. Il problema dei giovani non è del calcio in Italia, ma è di tutti gli sport. I nostri giovani, quando devono fare l'avviamento, fanno già i campionati seri, e poi, facendo un po' una provocazione, quando devono incominciare a fare i campionati seri smettono. Sì. Perché abbiamo il più alto abbandono dallo sport abbonistico a 13, 14, 15 anni rispetto a tutte le medie europee. Questo torniamo perché al calcio. Io credo proprio che ci siano delle stagioni. Questo perché, Vincenzo, secondo te? 16 di... perché smettono? Secondo me una delle cause è che abbiamo un agonismo esasperato nei bambini. Per dire, diventa una cosa che va oltre la psicologia del bambino, dell'adolescente. E quando questo può incominciare a dire la sua, al di là di quello che pensano i genitori, dice: smetto. Attenzione, perché quasi tutta gente che poi riprende da sola, perché proprio ne ha voglia, per giocare poi o nei dilettanti o negli amatori. E questi sono tanti studi. Tornando al calcio, e per dire anche ai possibili campioni, che poi sono quelli che ci interessano, secondo me noi dovremmo fare, e qualche paese già lo fa, una scuola per quanto riguarda poca specializzazione, molta attività tecnica fino a un certo punto, diciamo 13-14 anni. Puoi incominciare la costruzione del, quando hai il calciatore, lo costruisci anche come atleta, e a 17 anni, esageriamo un concetto, 17-18 massimo lo getti però nell'arena a giocare. Sì, ecco. Sì, trovando la collocazione giusta per farlo crescere, perché come mi ha detto... Esattamente, anche la Serie C. Ad esempio, certo, io non vedo giocatori nostri, di squadre anche importanti, andare a fare campionati, per dire, meno importanti, quali possono essere quello svizzero piuttosto Bravissimo. Che quello belga, piuttosto che il nostro. Ma, il nostro, certo, per un giovane, certo, sarebbe certo, un campionato molto interessante in Ucraina, perché sicuramente il giocatore deve arrangiarsi di più, sì, quindi sì, ha sì, proprio assolutamente più stimoli per crescere. Ecco. Ma sai, mio amico Dan Peterson me l'ha detto mille volte, non l'ha detto mille volte a questi microfoni, se non trovi giocatori italiani devono giocare, e allora se non trovi posto in Italia vai in Spagna, se non riesci in Spagna vai in Francia, se non riesci, Carlo, in Spagna vai in Lussemburgo, ultimamente bisogna giocare. Under 21 con due o tre giocatori titolari e basta, sì, nelle Under 21 pochissimi giocatori. Non parlo solo di Serie A, ma anche di Serie B, 3-4 titolari e altri giocatori che giocavano molto sporadicamente, così non puoi crescere. No, certo, Vincenzo, però paradossalmente in questa crisi e in questo sistema sbagliato ci sono diversi giovani in questo particolare momento storico che ci stuzzicano la fantasia, anche se poi io continuo a dire che servono le verifiche, perché certo, non basta un buon campionato per dire destro adesso è il più forte, ecco, attaccante del mondo. Destro secondo me è figlio dei problemi che elencavamo prima, perché l'Inter non è riuscita a giudicarlo questo Destro, certo, per dire, lo ha lasciato andare. Secondo me se Destro avesse fatto due o tre campionati, ma di C1, di C2, cioè se l'avessero potuto vedere all'opera di più, sicuramente Destro sarebbe stato un giocatore, sai, tu col settore giovanile ti impegni, spendi e poi questi vanno via perché tu non li giudichi. Quello non è una strada giusta. Certamente, certamente. Comunque ti dicevo, Destro, Verratti, Insigne, Immobile, lo stesso Marrone che domenica abbiamo visto in campo con la Juventus. Sono tanti, sono diversi comunque i giovani, certo, i giovani interessanti in questo momento. E comunque abbiamo parlato di tutti giocatori che sono riusciti a giocare in un modo o nell'altro. Esatto. Mentre per dire ne abbiamo anche altri, per dire, io proprio ieri qualcuno chiedeva ad esempio la storia di un giocatore molto interessante del Milan che era Berretta, no? Sì. Proprio ne parlavano che adesso dovrebbe essere al Como. Sì, è forse, un giocatore forse nel che per Pavia addirittura. Ad esempio, quando una squadra dà un giocatore in un'altra squadra, è chiaro che deve sapere che c'è un pochino una disponibilità a far giocare i giovani, perché se tu dai un tuo giocatore giovane a un allenatore che vede solo gli anziani, è chiaro che non lo metti in buona situazione. Ecco. Un altro problema, mancano le seconde squadre, e questo io lo vivo qua in Ucraina, che noi abbiamo il campionato riserve, oppure lo vivevo quando ero in Spagna. È chiaro che una seconda squadra vera che gioca fra i grandi, non una primavera, ti potrebbe aiutare ulteriormente. Sì, certo, non c'è dubbio che sia così. Per fortuna però esportiamo, abbiamo oggi in un sorteggio triste, dicevo, perché sono lontani i tempi in cui tu e sai che andavate verso il sorteggio di Champions League, certo, con la fiducia di poter... Siamo entrati anche noi vincere. Ieri sera, è un po' a fatica, ma siamo entrati. Sì, sì, sì, ho visto i complimenti. Noto che ci sono molti allenatori italiani a rappresentare il nostro calcio, oltre ai due nostri, c'è Mancini, c'è Di Matteo, c'è Spalletti, c'è Ancelotti. Ancelotti che ha le sue gatte da pelare, il povero Carlo, e tra l'altro Ibra ha cominciato a menare i compagni, pare, ieri Nenè, ieri le ha prese allora, Nenè. Allora è un buon segno, perché l'ha sempre fatto. No, però dicevo, se ce ne sono così tanti in giro, vuol dire che il modello quantomeno è esportabile, cioè che il calcio italiano è ancora una buona idea. Guarda, io penso, ad esempio, pensando, sono stato anche in Russia, adesso sono tornato in Ucraina, noi qua avremmo bisogno degli allenatori italiani a livello di settore giovanile, perché nel settore giovanile abbiamo ottimi allenatori, abbiamo bravissimi allenatori, io sono a contatto con molti di loro perché spesso faccio formazione, sì, per dire, io credo che sia, infatti da noi il problema non sono gli allenatori, è anche la spinta delle società che ad esempio rispetto a 10 o 15 anni fa adesso vuole vincere anche i campionati giovanili, quando invece il ragazzo sarebbe sicuramente meglio lasciarlo molto più libero, certo, per crescere anche non dico in modo anarchico, ma per dire un pochino più libero, ecco. Sì, sì, sì, non c'è dubbio. Vincenzo, buon lavoro, grazie. È un altro problema. Carlo, da sottolineare, sì, che crescere in una grande società è molto difficile. È molto difficile. Cioè, un talento dovrebbe avere la fortuna di trovarsi al, ma soprattutto all'Atalanta, al Chievo, sì, cioè dove la prima squadra è più vicina, perché così con più facilità arriva ad avere quello stimolo. Ma sì, ma io... pensando al Milan di qualche anno fa, all'Inter di un paio d'anni fa o la Juventus di adesso, un giovane, per dire, prima di vedersi là davanti deve... ha troppo spazio da percorrere. No, ha troppa strada da percorrere. Poi c'è, immagino, genitori che gli soffiano addosso, immagino mille problemi che poi lo portano, certo, magari, come hai detto tu, a 13 anni a mandare tutti a quel paese a dire ma avete rotto i, certo, santissimi, certo, io con il calcio smetto perché tanto non ho voglia di diventare un campione, soprattutto di sentirmi tutte queste pressioni addosso tutte le sere a cena, insomma. Certo, non sono nemmeno uno fanatico del discorso diamo degli incentivi per far giocare i giovani, perché come dicevi tu, i giovani quando sono bravi giocano, senza, sì, che, per dire, andiamo a fare dei mercati falsi, perché, certo, per dire, dopo diventano importanti i giovani, non perché sono bravi, ma solo perché sono giovani. Bravissimo, per completare le rose in Serie C o in Serie D. Ecco. Ma è quello che dico io, diventano importanti solo perché sono giovani, non è che perché sono giovani debbano, no, per forza giocare, devono conquistare il campo e poi devono trovare, come dici tu, la collocazione ideale, che sia in Binci o all'estero. Vincenzo, però buon lavoro. Sicuramente andare dentro, andare nell'arena proprio a giocarsela un anno o due prima, sicuramente è una strada che qualche risultato ce lo porterà. Sicuro. Grazie Vincenzo. Grazie a voi, buona giornata. Un abbraccio, grazie a Vincenzo Pincolini. Molti ascoltatori 800 24 00 24, mentre Maicon, indovinate per quanto è stato venduto al City per la strabiliante cifra di 4 milioni di euro. Lorenzo, da Firenze. Buonasera. Buonasera. Siamo da Firenze, sono tifoso della Fiorentina. Mannaggia Berbatov. No, dopo all'inizio era arrabbiato anch'io, però poi riflettendo ci hanno fatto un favore, perché si vede già che non era contento di venire a Firenze. Questo sicuro. Che è meglio, sì. Sì. No? Ah no, di sicuro, cioè poi uno che... in generale uno che si comporta in quella maniera, tra l'altro recidivo, perché dicevo prima che anni fa aveva firmato con Lecce, poi è andato al Bar Leverkusen, eccetera, eccetera, certamente non è uno molto affidabile, però... Sì, all'inizio la rabbia pura c'è stata, sicuro. La rabbia pura c'è stata all'inizio. Immagino. Però poi riflettendoci, meglio così. Adesso potrebbe... una domanda. Dica, potrebbero prenderle Borriello, dicono i ben informati. No, preferirei di no. Preferirebbe di no. Si tiene con l'idea. Ma domani basket. Domani basket anche, sì. Perfetto. Perché? Buono. Sì, sì, perfetto. Bene, buona trasmissione. No, ne ho parlato anche ieri comunque, per la verità. Lorenzo. Non ho capito. Ne ho parlato anche ieri, per la verità. Ah, sì, ma il venerdì è tutto sulla pallacanestro, la maggior parte, no? È cambiata la programmazione? No, adesso aspettiamo che inizi il campionato. Aspettate lunedì che inizi qualcosa di nuovo per quest'intera striscia sportiva. Avremo modo per parlarne meglio, insomma, di ciò che sarà nella prossima stagione. Da lunedì, nuovo format, nuova forma, anche nuovi suoni per questa striscia sportiva. Angelo da Torino. Buonasera, volevo fare una considerazione. Come mai Marotta annuncia per il secondo anno di fila l'acquisto di un top player, quest'anno ancora di più, nonostante avessimo vinto lo scudetto, poi senza arrivare a concludere nulla, questo facendoci masticare amaro fino al mercato di gennaio? Perché se vado a ripensare indietro quello che faceva la vecchia dirigenza, un certo Vieira, sono andati a Londra e sono andati a comprarlo, non era sul mercato. E non si sono fatti tanti problemi, perché l'atteggiamento attendistico avuto da Marotta, sperando che si abbassassero i prezzi, mi sembra più quello un atteggiamento utopistico che qualsiasi altra strategia utilizzata finora. Angelo, per le nostre, muoversi in questo tipo di mercato è onestamente molto difficile. Van Persie, Jovetic, Llorente, Drogba, Dzeko, Berbatov e poi alla fine Bentner, che era la riserva di Van Persie. Come mi sottolinea Giorgio De Luca dalla redazione, facendo l'elenco dei nomi che sono passati sulle pagine dei giornali accostati alla Juventus. Muoversi, ripeto, per costi e anche e soprattutto per ingaggi per i club italiani è estremamente difficile. Questa è la fantasia quella che ci vuole, la competenza e la conoscenza quella che un tempo permetteva, un tempo ma nemmeno così lontano permetteva al Milan, vedendo lungo, di andare a prendere Kakà, di andare a prendere Pato, di andare a prendere Thiago Silva per prezzi non impossibili. Io ho l'impressione che il calcio italiano di questo abbia bisogno, perché far la guerra dei quattrini oggi su giocatori già di nome, con gli sceicchi e con altre realtà europee, sia per noi un puro esercizio di stile. Questa è la mia impressione. Bob da Pistoia. Pronto? Pronto? Dica. Sì, salve, buongiorno. Ho una domanda sui contratti dei giocatori. Sì. Una domanda, un pensiero. Non pensa che i giocatori abbiano troppi soldi garantiti sui loro contratti? C'è un contratto di 2 milioni l'anno, dove 1 milione e 8 è garantito, più 200.000 sono bonus. Non pensa che ci sia troppo poco di bonus e troppo tanto garantito? Cioè, io sono nato negli Stati Uniti, dove... Sì. Su un contratto magari la metà è garantito negli anni e l'altra metà dipende dal fatto di come va la squadra, non ci sono retrocessioni ovviamente, ma come va la squadra, e se un giocatore non produce viene tagliato a un certo punto. Sì. Sì, no, questo è un discorso interessante. Questo è un discorso interessante. La Juventus ha provato a introdurre delle novità contrattuali proprio provando ad aumentare la parte premiante rispetto a quella fissa. Purtroppo in un sistema che si muove, io dico che non è solo il mercato italiano a muoversi in questa direzione, ma è un mercato globale che esige questo tipo di... Che permette ai giocatori di ottenere questo tipo di copertura. Poi per il resto sono d'accordo con lei, cioè se credete davvero in voi stessi, pensate davvero di essere così bravi, giochiamocela e poi vediamo. Loris da Piacenza. Sì, buongiorno Genta. Buongiorno. Buongiorno, in merito a quello che ha anticipato Pincolini. Sì. Il calcio non è obbligatorio, giusto, come tutti gli sport. Assolutamente. Deve essere un'attività sportiva, ludica e quant'altro. Se nel calcio giovanile c'è l'obbligo di giocare, allora poi noi facciamo la selezione al contrario ed eliminiamo i giocatori a 16 anni, che poi riprendono magari ai 22-23. Facciamo esattamente sempre il contrario in Italia di quello che serve per crescere qualità. Certo. Ogni tanto Gesù Cristo ci manda evidentemente qualche talento e lo accogliamo, ma la selezione è inesistente. Tutti pagano per fare sport e a 15 anni poi devono abbandonare, perché poi il campo, sì, o comunque lo sport, decreta i livelli qualitativi. Io credo che questo sia veramente da rifondare, ma non c'è qualità ovviamente nella dirigenza e nemmeno nell'insegnamento. Da rifondare come, secondo lei? Qual è la sua idea? Innanzitutto saper riconoscere quelli che sanno fare, insegnare calcio, io mi occupo di calcio, insegnare calcio è migliorare l'atleta e prepararlo per la gara. Sì. Quindi sono d'accordo con Pincolini, all'inizio facciamo il lavoro tecnico, facciamo il lavoro di dopo, di tecnica individuale, di tattica individuale. Sì, seguiamo un percorso corretto, sì. Sì, ma invece nel calcio, le scuole calcio che continuano a fiorire, cosa sono? Sono dei raccoglitori di denaro che sponsorizza la prima squadra. Certo. Cioè, è veramente una cosa. Poi, ovviamente, nel calcio dilettanti esistono gli obblighi dei giovani nei professionisti non ci sono. E qui poi creiamo tutta una serie di disoccupati, certo, che è meravigliosa, perché poi poveretti dall'eccellenza si trovano in terza l'anno successivo. Assolutamente così. Cioè, assolutamente solo per finire, sì, il 95 quest'anno giocherà obbligatorio nell'eccellenza di tutta Italia. Io voglio sapere chi è del settore giovanile, dei professionisti, che fa giocare un 95 in prima squadra. Ne trovi uno. Forse no, ma in Olanda, io sono contrario a queste forche caudine, cioè sono contrario a queste regole che impongono nel caso del basket ad esempio il certo numero di giocatori italiani e i giovani in un percorso formativo corretto dovrebbero poter trovare una via alla crescita ragionata andando a giocare, ma perché se lo meritano, se non in Serie B, in Serie C, se no all'estero. Però è chiaro che se uno non si misura, un giovane non si misura con i grandi, non potrà mai crescere. Ora saluto e ringrazio una voce che conoscete bene come quella di Claudio Arrigoni. Ciao Claudio! Buongiorno Carlo, buongiorno. Dalle Paralimpiadi di Londra che ieri si sono aperte e con un interesse forse mai visto intorno a questo sport. Però io volevo chiederti cosa ne pensi tu su questo polverone che si è alzato sul divieto di usare la parola disabile. Guarda, non è un divieto, è Phil Craven che è il presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, ha detto non usate la parola disabile, fatemi questo piacere perché qui non è così, la disabilità è una cosa diversa. Guarda, molto semplicemente Oscar Pistorius ha detto una cosa bellissima, sì, nella cerimonia del giorno prima, ha detto non guardate la disabilità, guardate le abilità. E questo credo che sia la cosa più importante. Poi sicuro. Io sull'utilizzo del linguaggio sono abbastanza d'accordo con Phil Craven, nel senso che credo che le parole giuste siano, per esempio, persona con disabilità, se proprio vuoi mettere l'accento sulla condizione lo dici, se no putti tutto sulla persona, sull'atleta, eccetera. E quando si parla di sport, atleta paralimpico credo che sia la cosa migliore, però non fossilizziamoci sulle parole. Detto questo, sì, detto questo hai ragione tu, che sai cosa mi colpisce moltissimo delle Paralimpiadi, in particolare di questa edizione, le tante storie che stanno venendo fuori, perché le Olimpiadi che si fossilizzano ad agosto fuori da ogni fuori ai margini di ogni palinsesto radiofonico televisivo, che si sottraggono da sole dello spazio collocandosi in un momento temporale in cui la televisione si guarda poco e la radio si ascolta di meno. Ecco, il palcoscenico offerto alle Paralimpiadi in questi giorni ci sta facendo scoprire delle storie bellissime che vanno oltre lo sport, la disabilità e tutto quello che vuoi. Sì, guarda, su questo sono d'accordissimo con te, perché la cosa bellissima della Paralimpiade sono gli atleti, ma come anche delle Olimpiadi naturalmente, ma le storie degli atleti paralimpici hanno sempre quel qualcosa in più, che è il superamento della disabilità, quindi questo sicuramente aiuta tanto. Qui ce ne sono di straordinarie. Io ieri ho avuto la fortuna e l'onore di commentare per Rai Sport la cerimonia di apertura e devo dire che è stato il trionfo del paradosso, cioè, abbiamo visto il più grande fisico del mondo, probabilmente il più grande fisico degli ultimi 50 anni, lì a presentarci come se fosse un Pippo Baudo qualunque, quella che era la cerimonia, detto con molto rispetto per Pippo Baudo, ma stiamo parlando di Stephen Hawking, la cerimonia, e muove solo le palpebre, sì, anzi una palpebra, sì, e poi gli atleti che sono stati, io credo che non ci siano parole davvero per raccontare quello che tutti i valori che portano dentro, e anche qualche disvalore, diciamo, non è che vive fuori dalla realtà paralimpica. No, non c'è dubbio. Claudio, per chiudere, oggi cosa ci aspetta? Oggi non moltissimo dal punto di vista dell'Italia, perché abbiamo però tre atleti in finale nel nuoto, dove speriamo in Federico Morlacchi, però oggi è l'apertura, nuoto in primo piano, quindi per chi si collega su Rai o anche su Sky naturalmente, perché anche Sky fa queste Paralimpiadi, attenzione puntata sul nuoto e sul basket in carrozzina, dove purtroppo abbiamo già perso con la Spagna. Domani invece grandissima apertura con l'atletica, che qui è davvero una delle, come nelle Olimpiadi, ma in particolare qui una delle grandi regine di questa Paralimpiade. Grazie Claudio, buon lavoro, torneremo a disturbarti tra un commento e l'altro. Non è un disturbo, è un piacere, lo sai, buon lavoro a te. Grazie a Claudio Arrigoni, con cui chiudiamo questa puntata, ci aggiorniamo a domani, aspettate che vi do un'occhiata ai vari siti per capire se è successo qualcosa sul calciomercato. Allora, Del Piero, c'è il casting, dicono, perché c'è il Sion, ma c'è anche il Celtic, c'è una squadra australiana, hanno aspettato fino alla fine per venirsi a prendere Del Piero. Napoli dovrebbe prendere Mesto, l'Udinese Pasquale e Barreto, il Siena Rosina e Zeduardo, il Palermo sta trattando per Gliama, il Milan come detto è a Manchester per portarsi a casa De Jong, l'Inter cerca Flockery o Rocchi e ripeto, Bettner alla Juventus, non ho ancora l'ufficialità ma arriverà tra poco, in prestito con diritto di riscatto a 6 milioni. Domani è l'ultimo giorno di mercato, domani avremo anche, conosceremo i sorteggi di Champions League, ne parleremo. Carmelo Lauricelli in regia, Giorgio De Luca in redazione, ciao a tutti.